cambia le impressioni di quello che viene prima, ovviamente. Ovviamente. Non tutti insieme. Sembriamo tipo cos'è, le Siamo classi delle nascosti. superiori in didattica a distanza, quando il professore diceva qualcuno ha domande, silenzio di stampa. No, ma la cosa lì continua fino a tutti i gradi di istruzione di qualsiasi grado, cioè. Qualsiasi grado, che Però ora siamo a bello. distanza, credo sia. Esatto, era quello Ma lo che fanno la stavo solita scena chiedendo. anche i dottorati, tipo, i dottorandi. Cioè, ti delle domande. Confermo. No, se ho delle domande te le faccio, però No, sì, come non cazzo ti si scema, si affermare. matto, non si fa, le Cioè, fai i dopo da dottori solo le sanno domande. letteralmente. Niente più Esatto. del professore che sta spiegando di solito sulla materia in questione, quindi vuoi Wow. fartene tu delle domande, non lo so. Vabbè, speriamo non so. Arrivo, sto chiudendo Hades. È buona? È la cosa più grassa che abbia mai mangiato in vita mia. Non è quella Cosa stai che prendo di mangiando? solito, è della Coop. Ah, è della Coop, ok. Quindi non è così tanto buona come quella del Lidl. È diversa, è estremamente Ma dolce e il estremamente grassa. soggetto? E i Perché? donut. Si stava Ah. dicendo dei donut senza di me. Strozzo qui. Oh, la voglio anch'io, quanto sono buoni. Oddio, Os! Hai tagliato tutto! Oddio, tagliate i capelli, Os, pure la barba! Oddio. Barba è diventata più a me. Scusami. Oddio. Sì. Ma c'ho Esiste l'indentatura banda da gamer. barba? Ma... C'ho l'indentatura da gamer, guarda. Bellissimo. C'ho anch'io, ce l'ho. Dov'è? Con No, non si vede l'indentatura da adesso. gaming. Bellissimo. Niente, un angelo ha perso le proprie Tristezza. Cioè, stai bene, Osso, ovviamente. Adesso sei molto Sì. Kratos, effettivamente. Sì. Ogni tot mesi mi rapo la testa. Ma sì, Devo fai fare. bene. Fa soltanto bene ai capelli, in realtà. Cioè, genuinamente, Sì, lo fa so. molto bene ai capelli. Vedi, Sirio, rasati la testa. Ma guarda, lo farei pure, ma se vado dal parrucchiere e dico rasami, credo che mi spara in testa, certamente. No, lo fai da solo. E Vabbè, poi vado ormai. dopo qualche mese da lui e mi spara comunque in testa. La mia cam non va. Scusate un secondo, perché non è collegata. Ah, ma... Che voglia di morire. Vabbè, dai, sono nel modo giusto di giocare a Adone. Hai visto? Beh, bello. Completamente fuori dalle grazie di Dio. Generico, non Direi. specifico. Se nessuno di voi Allora, sa fare un riassunto, lo faccio io. Volevi farlo tu? io non mi ricordo la parte iniziale della sessione, Probabilmente. genuinamente ho un vuoto. Infatti, non mi ricordo la parte finale, sì, la parte Ha dove detto. Maria. Ah no, dai, eravamo nel bordello. Siamo Eravamo andati, nel siamo usciti dal bordello. bordello e è Ed è venuta arrivata Maria Maria a lì cercarsi. a cercarci. Abbiamo visto che ci cercava. Abbiamo scelto di fare il nostro grande piano di fuga lungo tutta la città. Siamo arrivati fino al L'abbiamo fatta porto. scendere in cantina apposta per noi Sì, sì, poesignarci. sì, sì, sì. L'abbiamo fatta scendere in cantina e siamo arrivati al porto. Ci siamo nascosti dietro la chiesa. Io e Mif siamo entrati dentro a chiedere aiuto al prete. No, tu e Adone. Raga, Mentre è rimasto facciamo fuori fare il con noi. riassunto a Vianice, per favore. Più o meno era la stessa cosa che avrei detto io, perché avrei E poi ringraziato. tutto Esatto. il resto della sessione è il wish di Adone. Fine. Esatto, Ma Wish, non è che è un bambino che ha fatto Make a Wish. E ok, ammazziamo Maria Ressiari, cioè. Mi sembra letteralmente quello che è quanto successo, pare però. non Ho hai abbastanza. tolto la prima barra della vita. Esatto, è rinata Sì. la fase 2. C'è quella Mamma gialla mia. adesso. Manca, per fare il riassunto Vai. per bene, la parte in cui Adone vi prende di peso e vi porta su una nave e salpa. E sulla nave però c'era già il proprietario della nave, un certo Acupagetonte. Bravo, me lo sono ricordato al secondo tentativo. Acupagetonte, che è metà berber, metà Dio solo sa quale sia la sua etnia. Però non è fully berber. Ci arriviamo in sessione. E state andando in direzione Esbozon, della quale abbiamo la prima. No, qua. Il primo scarabocchio della mappa. Che non vi do ancora perché ve la manderò per bene in 4K autofigo quando troverete un'effettiva mappa del posto. Giusto. Per ora possiamo farla in due modi: o mi rollate tutti geografia, io vi dico quello che potete sapere di Esboson, oppure... Ma adesso siamo ancora in mare aperto, sì, cioè sì, nemmeno mare aperto, perché siamo mare aperto non ci si può andare in Caitlas. Ah, infatti. Sì. Siete nella costa, cioè a qualche miglia di distanza dal porto. 2 miglia, cioè non 100. Subito, capo. Fatto uno. Che figata, potete assommare. Io ho fatto 2. Io penso che la cosa più sensata fosse stato che Nibel sapesse qualcosa, perché gli altri personaggi non hanno veramente nessuna motivazione. Io non ha mai visto una mappa in vita sua, a quanto pare. Sei totale. Questa è un'isola di proprietà di Scirocco, sotto il regno di Scirocco. Non è parte di Achaies, non è parte di Scirocco, però è parte dell'impero, del regno. Quindi... Lieto deve saperne altrettanto di quanto sa di Apeira, per esempio. Potrebbe saperne altrettanto. Quindi un cazzo. Sì, a quanto pare è un cazzo. A quanto pare è un cazzo. Ho fatto 4 io. Io ho fatto 6 totale. L'Adone? No, ma io non lo faccio tirare. Non tiri nemmeno? Per curiosità. Dai, tira, che se fai un 10 lucky... Magari. Adone sta pensando a tutt'altro, che coglioni. Non ti obbligo a fare nulla. Ho 9. Che in realtà è nella stessa categoria di Mif, che ha fatto 6. Ecco. Quindi voi due sapete poco. Cioè sapete che Esboson è un'isola multiculturale, dove nella storia si sono passati diversi popoli. La gente della Capsara, la gente del regno di Scirocco quando era l'impero Ronum, la gente di Achaies, la gente di Azmea, insomma ci sono state 40 popolazioni diverse, tant'è che tuttora si parla un dialetto improbabile mix di queste cose. E che senso visual storytelling ci dica, ci spieghi? Schedi Fetres è sotto schizofrenia, okay. Secondo me. Bene, bene. E... altre cose importanti non le sapete. C'è una centrale di mana, non ci sono le ferrovie. C'è la centrale di mana perché è un posto moderno, non ci sono le ferrovie perché è un'isola. Quindi non avrebbe molto senso creare delle ferrovie. Cioè, ci sono due città. Un ponte lunghissimo fino al mare. Sì, esatto, di cui una è un villaggio e una è una città portuale. Potrebbero in teoria fare... La ferrovia che fa una fermata, non l'hanno ancora fatta, non era nelle loro priorità terraformare l'isola. Ditemi altre cose che potrebbero esservi interessanti. Ti dico che hanno aggiunto una nuova funzione di Roll20, se premi destro puoi mettere le pin adesso. Ah, ok. Quindi te le cosa? E poi quando ci passi sopra puoi decidere se rendercela visibile o meno, puoi scrivere il nome, puoi collegarla addirittura ad un endouts. Cioè tu clicchi sulla pin e ti esce fuori l'endouts tipo con la descrizione del luogo, sta roba qua. Potremmo farlo per la mappa nuova quando la sbloccherete. Per ora siete in mare. Aku sta gestendo il timone. E vi chiedo uno per uno di dirmi che cosa state facendo. Andiamo in ordine alfabetico, partiamo da Adone. Da quanto tempo siamo sulla nave, prima ti chiedo? Pochi minuti, cioè è proprio una questione di... Ok, di però partiamo. Sì, io se non ricordo male, Adone dopo avervi mollato un attimo giù, lui è andato sul ponte della nave ed è a... Poppa? È in fondo davanti? No, a prua? Poppa è dietro. Ok, a prua, a guardare appunto il mare, il cielo, ed è proprio appoggiato con le mani e sta leggermente tremando in quel momento. Anche perché sta rivivendo un attimo dei ricordi che gli sono riaffiorati. Ok. E sta avendo alcune realizzazioni. andiamo al secondo in ordine alfabetico, che credo sia Lieto. Lieto dice la barca. Quanto è grande sta cazzo di barca? È una barca piccola, cioè è un'imbarcazione che potrebbe avere un equipaggio di massimo 8 persone e in stiva lo spazio per il pescato, cose del genere. Cioè non è una roba mastodontica. Scendo sotto coperta, non mi piace la vista del mare aperto. Troppi ricordi. È comprensibile. Vi ricordo che in mare ci sono i mostri marini e sapete tutti che viaggiare in mare è molto pericoloso. Bene. Un motivo in più per stare sotto coperta. Il prossimo in ordine alfabetico è Nibel. Nibel è estremamente confuso al momento di questo frangente. Accetta gli eventi. Dice, ok, non ho tempo di pensare a quello che è successo, ci penserò dopo. E fa di vedetta in bar, per abitudine. Ci sta, se posso darti un vibe check in più, il tuo ultimo piano era andare a prendere Adelfo. Sì, sì, sì, cioè, quindi... ci sta pensando, incomincio a covare un po'. Ok. La cosa, però in realtà ci sta pensando da quando abbia tirato fuori la cosa, quindi non è roba, cosa nuova. Ok, ti dirò poi cosa vedi in mare. Andiamo a Mif penso sia vicino al timoniere, insomma, visto che si conoscevano, magari se si parla un attimino comunque le fa piacere a scambiare un paio di parole, però è tipo seduta, cioè non sta guardando attivamente il mare, le dà un po' fastidio. Ho capito. Non c'è del mobilio a bordo, cioè ti siedi per terra o su... Sì, per terra, sì, cioè tranquillissimo. Ci sono corde, ci sono strumenti da pesca, ma non ci sono oggetti importanti, non ci sono cannoni per esempio, ci sono le fiocine, ci sono due fiocine per lato, quindi quattro. E abbiamo finito la lista delle armi di questa cosa. Corde in abbondanza, le vele sono spiegate e ci sono le vele sotto coperta. La nave è dotata di un sistema alimentato dal mana per viaggiare, che al momento non è attivo, cioè sta viaggiando col vento perché costa e il tizio non si può permettere di andare col motore a mana. Se gli diamo noi dei manapenny, glielo andiamo più veloce, ne potete discutere quando volete. Però sì, l'idea è che per ora, finché c'è vento, va. E ci sono anche i remi per le emergenze. Non c'è una scialuppa di salvataggio. Si muore da eroi! Credo che l'idea sia un po' quella. C'è un solo albero per le cose. Sirio, sei bellissimo. Ma ti è bloccata la cam! Zoolander, momento. Avevamo dato un nome alla nave? La mortadella, no. Bella. Com'è? No, niente. Non penso. Ma che cazzo? Sì, è un meme di nicchia, vabbè, robe di Yotobi. Se non ve l'avevo detto, il nome è in un dialetto Acaies, quindi non nella lingua di Apeira, in un altro dialetto, che suona un po' come Fata Morgana. No, non l'avevi detto. Ok. Assolutamente no, mi ricorderei di una cosa del genere. La traduzione è più o meno quella, cambia un po' come è scritto Fate Moresque, una cosa del genere. Dovrei andare a vedere la traduzione esatta, ma è, cioè, Fata Morgana in italiano. Okay. Basta. Il tizio ve l'avevo descritto, vi ho solo detto che c'era. E no, l'avevi descritto un po'. Ok, sì. Perfetto. Allora, a posto. Poi ho fatto tutto quello che dovevo fare. Tuttavia sono passati 3 settimane, quindi potrei essermi dimenticato. Grazie. L'anno scorso, qualcuno potrebbe dire, qualcuno di più simpatico di me. Ok, è un di razza mista, cioè veramente mista, nel senso che sono tre o quattro razze insieme, quindi naso schiacciato, pelle relativa più scura che olivastro, meno scura che, non so, abbiamo avuto delle persone di colore in parti, no, non di recente, non di, con Nibel, okay. Con Nibel, okay. No, okay. In Fevio, okay. Okay. E... in Fevio. C'è stato. Quindi, cioè, sì, la carnagione di Nibel più o meno, cioè, un pochino più scura di quella di Miff alla fine. Sì, esatto, tipo un tono più scuro di Miff, nonostante sia freddo, perché è il 18 ottobre, credo, non è il tuo compleanno. Il tizio ha gli abiti da pescatore tradizionale dei suoi posti, quindi vuol dire che ha degli stracci con sopra delle pelli di animale e con tutti dei denti di animale attaccati. E una, io lo chiamerei gonnellino, ma sotto anche i pantaloni, e basta, scarpe aperte. È muscoloso, non altissimo, ma, cioè, sarà 1,80 m, però è molto muscoloso ed è abbastanza hunched over, cioè non sta dritto con la schiena. Capelli corti scuri, mi pare, e ha dei tatuaggi, che è una roba strana, perché come ben sapete, se uno usa i manapenni per guarirsi, i tatuaggi spariscono, quindi vuol dire che lui è un po' che non li usa ed è pieno di tatuaggi. Damn. Damn, tipo... boy. E thick, boy. Non c'è niente in sottocoperta interessante, immagino. È una barca di un pescatore. È la barca di un pescatore comprata di recente, quindi è vuota. Fantastico. Sì. No, quindi non c'è neanche la pezza di pesce o di altre cose che dovrebbero esserci, è nuova. Vabbè, cioè... meglio. Dicevi? E io vorrei andare dal tizio e chiedergli se possiamo speedare questo viaggio. Da sottocoperta. Ci arriviamo. Nibel? Niente, io sto ancora guardando fuori. Ok, nella direzione in cui state guardando il mare non è a perdita d'occhio. Era, pioveva l'ultima volta? Ma non era bellissimo il tempo, ok, era nuvoloso. Sì, pioveva. Ok, sì, e sì, quindi pioveva. In realtà la visibilità è molto ridotta. T'avevo detto che nei giorni di luce belli, eccetera, si riesce a vedere Esboson in lontananza, è un puntino. Si vede un cazzo, cioè mare a perdita d'occhio finché non vedi le nuvole che fanno un muro, fanno cappa in un certo senso, e quindi fai fatica a vedere oltre qualche chilometro di distanza dalla barca. Adone, lo facciamo per ultimo, va bene? Sì, sì. Ok. Devo tirare? No, non serve a niente, lo facciamo dopo quella cosa lì, quando andiamo in pausa, diciamo. Aku e Miff stanno già chiacchierando dei fatti loro. Aku deve aver chiesto a Miff come è andato il viaggio di rientro da Farland, se ha avuto altri incontri strani o se è andato bene. Miff gli risponde che alla fine è andato tutto bene, non liscio come il primo viaggio. Non c'ero io. Appunto, dai, l'ha viziato un pochino, gli ha tirato. Puoi metterti la questa cosa. Conversazione quando vuoi, lieto. Da allora, così. Io ho fatto tanti così, altri scusi, signor Painaio, sembra un po' lentina la situa, si può fare qualcosa? Ho poca riserva della mana unit, quindi se iniziamo ad andare veloce adesso e ci troviamo dei problemi, ci toccherà affrontarli. Ne serve proprio una mana unit intera? O... sì, il motore è fatto per accettare una sola mana unit. Posso... il motore è di sotto, vero? Il motore o è fuori? Lieto. Posso scendere a tinkerare con il motore? Miff guarda Lieto come per dire no, hai già mezzo spazzato una macchina. No, funzionava bene, faceva latte con cereali, Non la tocchi, la guardi e basta. Okay. Va a chiedere il parere di un adulto e indica Nibel. Va bene. Qua chiaramente tu non lo sei. È nuova. Quindi gradirei che rimanesse in buone condizioni il più possibile. Te la miglioro, te la miglioro. Sono bravissimo con i macchinari. È vero. Può anche essere persuaso da questa cosa, eh? Potrebbe anche essere persuaso, però Nif sembra di no. Sei tu a scegliere cosa fare. Sono stato bellissimo con l'ultima. Ah, così bene è andata. Un conto è una macchina che ci fa del cibo che può essere rimpiazzata. Un conto è 3 di scienza, 3 di tecnologia e 2 di scienza. Tipo, vedi, mi sa che le viene un tic all'occhio, no? Per quanto mi riguarda, non ho idea di come siamo saliti qui sopra, non ho idea di come abbiamo trovato questa barca, non ho idea di come abbiamo fatto a partire così tanto velocemente, non mi farò altre domande, lieto. Non vuoi rimanere bloccato in mare. Allora, se va male, mi metto a riparare. Se va male, ti utilizziamo come vittima sacrificale per un pesce troppo cresciuto. Ma un po' hardcore come una roba, tanto non la stiamo usando già adesso la cosa, cioè, vabbè, va bene, mamma mia. Va a guardarlo, no, però chiedi a Nivel. Il nostro pescatore, quando dici vittima sacrificale per un pesce, ha un pensiero intrusivo che riesce a tenere per sé per circa 4 secondi, dopodiché lo esterna e dice: non abbiamo fatto dei sacrifici prima di partire. Lieto, buttati. Questa è una superstizione o un requirement suo personale? Glielo stai chiedendo o lo chiedi a me? Glielo sto chiedendo a lui. Okay, lo sto chiedendo. No, per capire. No, è che è l'abitudine. Ah, ok, allora non mi fai un cazzo. Tanto c'ho... Dimmi, non sei una persona religiosa, è solo... Meno male con quello che fai. Figurati. Noi sappiamo che Maria è morta. Voi non avete la palla di idea di cosa sia successo, perché... Noi l'abbiamo vista e dopo non l'abbiamo più vista, eravamo sulla nave. Okay. L'unico tizio che sa qualcosa è... quello. Esatto. Comunque, onestamente, dopo le cose che sono venute a sapere questo party, io mi caccherei un po' addosso il fatto di non aver fatto nessun tipo di sacrificio e cose del genere, visto che gli dei a quanto pare... Io, Tirio, sì. Adone adesso sta facendo esatto, il... anche io, Sara. Leopardi del momento. Ciao, un attimino. Non menziona questa cosa ad Aku. No. Anima viva. E lui dice che sicuramente non porterà sfortuna. Per una volta che saltano i sacrifici non succederà nulla di male. Figurati, non potrà andare peggio di quella volta che ho messo un manapenny nella cesta di... Porca troia! È una scena di Griffin questa. Onestamente è vero. Cos'è che ci verrà? Un dio questa volta piuttosto che un avatar? L'avatar c'è già. Anche il dio qualcuno discuterebbe. Eh sì, okay. Sembra una bella. Devo anche il diavolo se proprio, quindi a posto. Ando dove? L'avatar è un dio. Come dove? La barzelletta. Le barzellette su Paintless essere tipo un diavolo. Barzelletta di Paintless 3, tipo un diavolo, un dio e un avatar entrano da una porta, ma ci sono solo due persone. Cioè, una cagata del genere. Sì. Esatto, c'è solo una persona. Chiedono uno sgabello e sono tutti seduti. Senza neanche girarlo, pensa a te che cosa strana. Magia. Ok. Fondi. Se volete fare qualcosa ditemelo, altrimenti vado avanti io. Mif chiede ad Aku la sua voce: forse è il caso di fare comunque qualcosa? Hai qualcosa qua da poter fare? Non credo che sia avanzato niente, la barca è nuova e ho speso quasi tutto per comprarla. Poi farei sacrifici a metà viaggio e forse è peggio. Ok. Mi ritorna a mettersi comoda, non so, tipo alzi. E dice: dalle nostre ultime conversazioni non mi sembravi particolarmente credente. Lasciami stare. Hai trovato la fede? No. Ho trovato la paura. Ma pensa. Ti cambia. È tipo... Guarda Adone, no. Ti cambia. Adone di spalle, oggettivamente. Adesso sta guardando davanti al mare. Esatto, quindi... esatto. Si slaccia la giacca lei, mostrando una profonda cicatrice sul petto. E dice... Sexy. La paura non ti aiuta in questo mestiere. E poi si riallaccia. Sì. No, penso di no. Giacca è una parola grossa. Infatti non è quello che faccio. Dai, sarà un viaggio veloce. Giusto 2 o 3 giorni in base a come si mette il meteo. Come mai hai preso questa barca? Perché sei qua, oltretutto? Non eri al nord? Sì, abbiamo preso... una tartaruga isola e ci hanno dato un sacco di soldi per questa cosa, veramente un sacco di soldi, e la mia ciurma si è divisa, cioè sono andati tutti in pensione, uno si è comprato un appezzamento di terra, uno si è comprato una fabbrichetta, insomma le cose che si fanno con i soldi, e a me mancava il mare, quindi ho viaggiato per un po' e poi mi sono ricomprato una barca. Pensavo di stabilirmi ad Apeira, iniziare un business o di trasporti o di pesca, insomma quello che offriva il mercato. So che c'è un sacco di gente che va da Apeira a Lazmea. Beh, finché non vai in bar aperto. Poi con, se non mi ricordo male, eri anche bravo ad ammazzare sti mostri. Oh, sicuramente più della gente di Apeira. Probabilmente sì. A proposito, guarda quelli che sono sul ponte uno dopo l'altro. Sapreste combattere, immagino. Tu, ricordo, sei una strega? Mm-hmm. Il tizio grosso? Sì, circa. Vedo. E che osso. E che sì, grosso. Il tipo, la tipa? La tipa magrolina che vi ha portati sembrava... ben versata nelle arti magiche. E tu, ragazzetto? Sì. Bene. Allora sarà un viaggio tranquillo. Al massimo qualche pesce che caga fulmini. Non c'è niente di pericoloso in queste acque. Contiamo le gufate? Sentiamo le gufate, lo stai facendo apposta comunque, anche perché tu le chiami e tu le fai, eh. Sì, cioè sì, non è che ci diamo tanto. Adesso vedi che la prima carta dei tarocchi o è la torre o è la morte. Cos'è? Non vedo. Ok, is this a good thing? Dei piselloni. Esatto, po, po, po. Ok, di nuovo. Se volete fare qualcosa, altrimenti proseguo. Vai, vai. Vai pure a cenere. È la sera del primo giorno di viaggio. Ci organizzeremo come quella volta in quarantena. Cioè, ogni giornata è divisa in 2 momenti. Mattina e pomeriggio. Durante questi 2 momenti mi dite un'attività che volete fare... e la fate. Questa attività vi fa guadagnare punti statistiche, punti alle maestrie, cose del genere. Farete un roll per determinare come va l'allenamento, eccetera. Dovete descrivermi dettagliatamente cosa volete fare per permettermi di dare un senso a sta cosa. Cioè, le attività principali saranno tipo pescare, perché siete partiti senza provviste, quindi sarebbe carino avere un modo di non morire di fame in mare. La seconda cosa che potete fare è fare allenamento fisico sulla barca. La terza è fare pratica con una disciplina, quindi o allenarvi con il combattimento, cioè fare pendenti nel vuoto, per esempio, oppure su una disciplina magica, quindi castare tutto il giorno una spell, che è quello che si fa nelle scuole di magia fondamentalmente. Quindi più o meno tutti voi sapete che sta cosa esiste, cioè che è una roba vera per allenarsi, castare le spell a nastro, oppure qualcosa di non previsto. Io credo che voi abbiate libri o altre robe con voi. Sulla barca di base non c'è niente di tutto ciò, quindi se non avete un modo per studiare qualcosa è difficile studiare, cioè allenare mente e cultura. Però mente può anche essere altra roba. Io ho una domanda allora da questo punto di vista. La spell che ha castato il vescovo era una teurgia, sì, tecnicamente. Ok, l'effetto è uguale a quella cosa che ha bevuto Miff ancora in Gulaka, è identico, è letteralmente quello. E non mi ricordo se tipo il vescovo aveva fatto vedere qualcosa, tipo aveva fatto leggere qualcosa, perché ho un vago ricordo di questo. Sì, però aveva detto che aveva un libro dove c'era spiegata quella magia lì. Non gliel'ha dato. Esatto. E anche lui non la sa castare come rituale, cioè deve mettersi lì e prepararla. Mm-hmm. Ok, niente allora. Cioè, non penso a Mifa abbia la capacità di provare a formulare una magia per poterla creare. Stavo guardando le schede per vedere cosa avete nell'inventario. Tu hai ancora della neve azzurra e dei pezzi di automa. Ma sai che ci pensavo l'altra volta? Ci ho pensato l'altra volta in sessione, cioè in intersessione. Ero lì, vabbè, chissà che cazzo non mi faccio. Adesso ci sto pensando, effettivamente. Avete del cibo, perché Miffo si è tenuta delle pite. Io no, non ho niente. Abbiamo delle pite, va bene. Io possiedo una tonaca, una pergamena di Kronos e una meridiana di Kronos. Invitiamolo. È quella che aveva scritto a mano o è un'altra cosa? Ok. È quella la cosa di addio. Ah, ok. Io ho un sacchetto di chiodi, un martelletto e una spazzola di ferro, se possono servire. Quindi, ok, c'era duplicata questa. Sì, siete un po' a corto di oggetti in questo momento, esatto. Sono proprio strane. Un sacco di cose da poter trainare. Esatto. La pesca poi un altro pesca è mente, la pesca può essere forza se scendi e nuoti. Allora questo è da domani, perché ora è Io ho una domanda, Pjanic. Posso usare Future Glimpse per vedere dove saranno i pesci? Puoi spammare Future Glimpse come allenamento e come side effect avere quella cosa lì, sì, puoi fare una cagata del genere. Oh, è utile, insomma, cioè andiamo a pescare giusto. No, infatti, secondo me non è troppo una cagata quello che ho allora, detto. Ve la metto in un modo diverso, cioè potreste fare un'attività anche stasera, però siete stanchi dalla giornata. No, stasera non si fa un cazzo, no. Ora che siamo tutti d'accordo su questa cosa qui. Sì. Si fa una certa, cioè comincia a calare il sole mentre la barca procede spedita. Ogni tanto Aku chiede a uno di voi di tenere il timone e di andare dritto mentre lui va a pisciare. Comunque c'ha dei bisogni fisiologici anche lui. E il suo pisciare consiste nel mettersi in piedi dal bordo della nave e pisciare. Perché comunque cioè, un uomo di mare, cosa deve fare? Oddio, a livello di logistica, come facciamo tipo io, Adone, adesso? Perché Adone è una donna adesso, sottolineiamo, quindi non è... E ti abbassi i cosi e pisci fuori dalla nave. Ah, cioè ti attacchi al collo, giusto. Scusate, Madonna, veramente, ti fai tenere da un'altra persona, che cazzo ne so, cioè. No, ma scherzi a parte, io... No, andiamo avanti, non ci voglio pensare, nel mio immaginario c'è un cesso sulla merda di nave. Sì, anche, anche perché, scusami, la numero 2 non puoi... Ti attacchi a tutti i braccioli che ci sono... Esatto. Devi mettere la cintura di sicurezza. Non hai idea di quante persone sono cadute fuori bordo cagando. Faccio un coso shibari assurdo per rimanere. Vabbè, ci saranno dei secchi tipo questa cazzina. Sì. Ma ci sono. Ma c'è una latrina, ovviamente. Bellissimo, sono molto contento. Per dormire ci sono delle postazioni sotto coperta. Chiamarli letti è un'esagerazione. Tra l'altro sono quattro, voi siete in sei. Ora uno deve rimanere sveglio perché c'ha quattro per i turni. No, ma equipaggiamento da otto persone, ma quattro letti. Quattro persone stanno materialmente sulla nave. Fisicamente ci possono stare otto persone. Okay. Poi comunque una persona non dorme mai, perché se uno dormendo c'è un problema. Sì, hai ragione. Quindi sì, otto persone, anche due turni, quattro e quattro volendo. Vabbè. Andiamo avanti. Sì. Si fa sera e Aku ritorna dalla sua pisciatina serale e dice: siete tutti sul ponte a questo punto? Sì. Perfetto, anche in posti diversi, tanto vi sentite da un punto all'altro. Ok, immagino che voi non abbiate un cazzo da mangiare, vero? Siamo venuti un po' dalla sua tasca, 8 vite. Non avevamo molto tempo. Potrei gettare l'ancora e tentare di pescare qualcosa. Hai delle reti? Tira fuori un arpione. Ho questo. Ce lo faremo bastare. E dovete farmi da guardia. Se avete un modo di fare luce, non mi dispiace. E tanto per capire dove devo tornare. E l'altra cosa, assicuratevi che la barca non prenda il via. Ok. Ok, quindi le miele le chiudiamo. Cioè. Sì. Qualche maniera. Mentre voi fate questa cosa, lui va verso l'argano e lascia cadere l'ancora. Una lunghissima catena. Comincio a slegare le corde per le vele per poterla chiudere. Lui si spoglia e rimane con veramente solo il gonnellino. Fa un attimo stretching, si prepara e si lancia, si tuffa in mare. È sera, quindi è buio e senza corda né niente nell'acqua. Buona fortuna. Riesci a fare luce o la devo fare io? E la mia luce è una palla di fuoco e fuochi d'artificio. Esatto, sì. Quindi se ne hai una è un metodo più di pesca, bruciare tutto e far salire i pesci, La pesca però con la dinamite. Sì, certo. Bruciamo anche Aku che è dentro l'acqua. Oh, ma magari lo buttiamo dalla parte opposta. E niente, allora Miss si prende un manapenny, no, fa girare tra le mani. Infatti, passione tormentata, luce tipo con il braccio alto così. Ma non avranno delle lanterne questa cazzo di nave? Non ha delle lanterne. Ma com'è possibile che non abbia delle lanterne? Ce le avevano i pirati. Ce le avevano i pirati. Appena ce le avevano i pirati. Non ha neanche un equipaggio, gli siete saltati addosso. Ce le avevano i pirati. Non avrai in dotazione un lumino, un qualcosa, cioè un posto per mettere la lanterna. Io non sto dicendo ha già accesa, un posto per metterla. Attaccato al, come si chiama? All'albero c'è il gancio per sta roba qua. Ma non c'è una lanterna. No. Voglio rollare per vedere se c'è. Prego. Però anche tu. Se faccio più di 5 c'è. Vabbè. Che lo scegli tu, tra l'altro. 9. Toh. Scusate, la smetto. No. Cosa c'è una cosa dal nulla. C'hai 3. 12. Sì, 3, quindi sì, 12. Ciao. Miff fa la roba degli orchi di Warhammer. Vabbè. Non è possibile che non ci sia una lanterna, e cerca così a fondo la della nave che effettivamente trova una lanterna. Bene. Sì, Absolutely. Sono molto contenta, grazie. Dimmi che osso ha sentito. Spero di no. No, non ha sentito. Peccato. Abbiamo trovato una lanterna, Os. Ok, bene. Non devo buttarmi in acqua con i funghi per illuminare allora. Ok, perfetto. Allora Mif prende la lanterna, tipo, vede un attimo come funziona e a sto punto, cioè, si rivolge di nuovo a Niet e fa, ma non è che riesci a fare tipo una fiammellina piccolina? Cioè, piccolina, non una palla di fuoco, piccola. Un po' di controllo dei propri poteri. È un flame, no, questo? Cosa cazzo vuol dire? Questo è un cast di palla di fuoco. No, questo è un cast della fiammella piccina. Certo. Perché la mia intenzione era quella. Ha fatto uno il dado. E ti ricordi? E adesso è diventato le magie cast che esplodono. Lei l'ha chiesto, io ci ho provato. No, no, Bianic, non farci andare a fuoco la nave, che io ti giuro. Lieto. No, no, no. Ti chiede di tenere in alto la lanterna così che possa accenderla, no? Fa una cosa del genere, mi farei capire. E incenerisce la lanterna. Però fa una bella luce per un secondo. Rip lanterna 18 ottobre 1622. 18 ottobre 1622. Miff guarda la lanterna, guarda Lieto, guarda di nuovo la lanterna, lancia via i pezzi che rimangono, ok, proprio prende il manapenny, un punto ama, cioè, ti per uno di esperienza. Sai cosa, for fun value, sì. E niente, prende un manapenny, no, e tipo cerca un posto magari dove, cioè, si ricorda da dove dove si è buttato Aku, quindi nello stesso lato della nave, cerca magari di farlo rendere visibile, insomma. Lo togli tu o te lo tolgo io? Me lo tolgo io. Ok, crei praticamente quasi una bolla di luce abbastanza in alto da permettere di vederla da tutti i lati. È abbastanza luminosa. Non sai quanto tempo riuscirei a tenerla, però ti concentra. Sì, sì, fai del tuo meglio. Esatto. Si alza il vento e notate che sono 2 minuti che non riaffiora il tizio. Voglio un numero da 1 a 10 sulla preoccupazione di ciascuno di voi. 10. 2. Mi fidavo del tipo, cioè, sembra uno che ha fatto questo lavoro per un sacco di anni, cioè, ispirava fiducia in questa cosa. Nibel è tipo un 8, sa che è un pescatore, probabilmente può tenere il respiro per molto tempo, però è comunque preoccupato, vista le condizioni del meteo. Ok, Mif? 3, Mif l'ha visto in azione. Ok, ok, dai. Sì, esatto. Quindi abbiamo un unico dubbioso, è quello che in realtà sta pensando ai cazzi suoi, quindi non fa testo. Ok. Come sta andando la sua sega mentale, il suo volo pindarico? È ok, in un angolo io volevo chiederti, ma io posso mandare il mio famiglio a pescare? Il coniglio? Sì. Credo abbia più 0 a nuotare. Muore? Affonda. È un roll basso. Sì. Affonda. Beh, ragazzi, io non ho nulla da fare, quindi a questo punto provo a mandare il coniglio a pescare. Che vedete, appunto, sono sempre lì a prua. Arriva il coniglio e gli sussurro nell'orecchio e gli dico, vai a pescare. E poi lo lascio andare. Sto che farò uno. Così. Un 2. Bellissimo. E io dico, finisce in acqua e non fa pop. Okay. Fa proprio quel bel suono di un oggetto in acqua che scende. Adone guarda il punto dove era il coniglio e vedete che si rigira e si mette in questa posizione e dice e riprende la sua sega mentale. Quello che tocco. Ok. Posso... Vabbè, è andato il mio coniglio. Vedete? Via. Dopo un altro minuto o due, quelli che stanno guardando fuori dalla nave, un'ombra fuori dalla nave, come se ci fosse qualcosa in basso. Quanto è grande quest'ombra? Non riesce a capire quanto è in profondità, quindi potrebbe essere grosso come uno squalo oppure un poco più grande di una palla da calcio. Ok, gli ritorna, gli lanciamo il gancio. Finché non lo vediamo io non vorrei rischiare, in caso tenetevi pronti. Ok, va bene. Dopo alcuni secondi, dalla macchia nera emergono delle bolle e poi esce fuori un braccio, questa cosa l'hai già vista, un braccio che tiene in mano un coniglio. Tantissimo! Riaffiora l'acqua e dice, ma l'avete tirato voi questo? Lui, anzi lei. Is. Adone si gira e guarda e a questo punto si alza e dice, ah, pensavo fosse morto. C'è il coniglio che è tipo tutto rinfreddolito, bagnato. Dai su, vieni qua, alle ali. Che bagnate, non... Hai ragione. Okay, penso che adesso caliamo la corda per lui per salire, insomma. Allora, non è andata benissimo, però qualcosina ho preso e fa vedere che legati al suo gonnellino, cioè proprio infilzati in quei denti, in quelle robe che c'ha, ci sono due o tre pesci, non enormi. Va bene, lo stesso. E a questo punto Adone, tenendo il coniglio, cercando tipo di farlo stare tranquillo, dice a dire il vero, se c'è scarsità di cibo non serve che cuciniate per me, non ne ho bisogno. Ti mangi il coniglio? No, però non dovete cucinare per me. Vuoi dimagrire? Non ho capito. Cioè, mi sti guardano come per dire che succede? Non e a questo punto uno dice non credo che il mio corpo abbia bisogno di cibo, non ora e forse mai più. Ah, oh, vabbè, uno in meno, meglio. Credo che sia meglio che mangi qualcosa, ma non credo di sentire di averne il bisogno, la necessità. Ripeto, tipo... è più importante che mangiate voi. C'è Miff che è molto sasso in questo momento, fa... No. Ok. Tipo, si gira verso gli altri come per dire... Ok, va bene. Detto questo, se volete vi do una mano a cucinare. Aku vi guarda e dice la barca era nuova, non ho moltissima attrezzatura per cui i coltelli come... quelli non mancano. I coltelli non mancano. No, i coltelli non mancano, ahimè credo manchi il fuoco, non credo di avere un'apparecchiatura per... Adone tira fuori la sua bacchetta di rubino che fa fuoco. Dopo 13 anni è servita qualcosa. Cazzo, mi sono ricordato la scorsa sessione che ho possiedo una bacchetta di rubino. Wow. Aku, che conosce lo strumento che stai mostrando, dice ah, bello, e se mi date un minuto preparo il pesce e ce lo mangiamo. Vado ad aiutarli comunque a questo punto. Il casta horoscope su Adone. Ho abbastanza mana, sì, ho mana. C'è un modo in cui se ne possa accorgere Adone, ma mi pare di no. Cioè, se lui è impegnato, Mif, esatto, tipo, si mette dietro da qualche parte e inizia, insomma. Quindi cioè, quindi... Ne accorga. Domanda, eventualmente, Bianic, mi rimandi la cosa... Che l'unica cosa che non c'è scritta nelle note della mia scheda, che sì, non la trovo più e mi serve, grazie. Thank you. Comunque è molto facile darti il risultato di Horoscope, perché guarda la scheda di Adone. Ah! E... Can I? Ok. Sì, puoi guardare le sue spell, cioè la colonna delle magie. Le magie. Sai che è a livello 4. E... Ok. Boh, basta. Cioè, in realtà Horoscope non è che ti dice molto di più di questo. Sì, ha ancora le due anime? Tu vedi anche quello. Ho laggato, non ho sentito sì, un sì, cazzo. Sì, non ho risposto. Tu vedi anche quello. Ah, ok. Ok, sì, te lo metto in questo senso. Quando tu casti Horoscope, tu percepisci una specie, non so se chiamarla anima o un qualcosa. Cioè, se la persona è morta non puoi castarlo, se la persona non è una persona non puoi castarlo. Nel caso di Adone, senti che hai un array di bersagli validi per Horoscope. Perché Mif ne aveva visti due. Sì, quando e ora si era appena svegliato. Ce ne ha un po'. Sì. Un po' quanti, un po'. Non è che è una cosa che riesci a contare a occhio. Una dozzina circa. Po'. Più di due, meno di 20. Oh, certo, certo, è normalissimo. Ha voglia. Ok, l'ho trovata. Ha voglia. Sera. Scusami, ci ho messo un attimo. Non... Grazie, sì, sì. Tranquillo, tranquillo. Oh, mio Dio. Perché okay. Devo cambiare scheda, perché sennò... Ok. Mentre loro di sotto tagliano il pesce, quindi lui ti dà un coltello e ti dice: l'hai mai fatto? No, dire il vero. Ok, è molto semplice. Praticamente, questo è un pesce. Devi mettere il coltello sotto la testa. La testa, lo vedi, è questa. Okay. Un colpo secco verso il basso e apri. Queste sono le budella, le prendi e le butti. C'ha un secchio lì, devo buttarle. E questa è la spina, anche questa va tolta, e la coda c'è che piace, c'è chi no, la teniamo, c'è poco da mangiare, e quindi la testa si taglia, vedi che fa un gesto molto rapido per tagliare la testa, e abbiamo due filetti di pesce e la coda. Ok, vuoi fare un roll per vedere come lo fa? Dai, fammi sta cosa. Dai, Adone. Io intanto chiedo questa cosa qui. Che pesce ha pescato? Ottima domanda. Sono... Devo dire una cosa, però. È la prima volta e Adone è un nobile. Oggettivamente non credo abbia mai veramente cucinato in vita sua. Allora, invece che fare la cosa bella e elegante che ha fatto lui a fare le due cose, hai fatto una tartare di pesce. Nel senso che l'hai tutto triturato un po' a casaccio. E lui dice, ma non ti preoccupare, come prima volta va benissimo. Va benissimo, si può mangiare, quindi hai fatto del tuo meglio. L'ultimo lo faccio io, se non ti preoccupi. Io tendo al fuoco piuttosto. Sì, sì, sì, sì. Anche lì devi cuocerli finché non cambia colore, molto facile. E se li cuoci troppo fanno schifo. Se li cuoci troppo poco moriamo per i parassiti. Certo, però certo. Non ti devi preoccupare, c'è cioè una roba tranquilla. Dicevo. Cazzo, Future Glimpse per vedere in che quale realtà lo facciamo. Bello, mi piace questo nuovo odore. Ora, io non ho portato in mano il pesce esatto che ha pescato, ok? Non ho voglia di fare una ricerca su Google per questa cosa. Per cui ti dirò che è un pesce azzurro, commestibile, normale, non alterato dalla magia, non... con dei simboli triangolari sopra, dei cerchi bioluminescente, ha quattro braccia come tutti i pesci che ho mai visto in vita mia, e nove code perché comunque certo anche io voglio una già bella in qualche modo. Sì. Anche io, certo. Le braccia non bastano. più roba da mangiare. No, è un pesce normale, a forma di pesce normale. Ok. Voi tre siete rimasti sul ponte, c'è ancora la luce di Mif. E... vedete che Mif sta castando una spell e che ad un certo punto proprio con gli occhi, se era normale, fa Nibelli con Nibel, magari sta guardando verso il mare e lieto, dimmi tu cosa stai facendo. Guardando il mare anche lieto. Non c'è mai stato sopra. Sì, infatti, tipo, guarda gli altri, fa romanticoni. Forse abbiamo un problema. E tipo, se si girano, indica così. Perché era messa così, Adone di sotto, esatto. C'è la cam di Siri che è esplosa per me, oltretutto. Ah, sì, è ferma. Sì. No, a me caricava e basta. Ok. Grazie. Stai... 5 euro prende un'altra cam. Sì. Non ho più per idea di cosa è successo oggi quando siamo arrivati sulla nave, però ormai ho preso l'abitudine di non pensarci troppo a questo genere di cose. Sì. Forse è una cosa più normale che ci è successa nell'ultima settimana. Tipo, Biff riguarda verso Adone, no? Sente tutte queste cose, riguarda verso Nibel e fa io non ne sarei così tanto sicuro. Perché? C'è qualcosa che... Ho appena castato Horoscope su Adone, mi sembrava un attimino strano, l'ho fatto anche quando è resuscitato dai morti, ok? Da solo, senza... così, ok? E avevo sentito tipo due presenze dentro di lui. Adesso ce ne sono tante. Ok, non ho la più presa di cosa sia Horoscope, non mi fido. Tipo, vedi, Mif, è una spell per vedere lo stato delle persone che incantesimi conoscono, se tratti, ci sono più anime dentro Adone di quante non ce ne fossero prima. Non ho sentito. Ci sono più anime dentro di lui di quante non ce ne fossero prima. Mif fa sì con la testa. Tante. Avevamo già sentito una profezia riguardo, mi pare, no? Lui lo sa di questa cosa oppure... Non ne ho la minima idea, però glielo avrà bisogno. Avremo bisogno di qualche risposta in questo momento, anche perché come cazzo siamo arrivati fin qua? È un'ottima domanda. Quindi questa è... andiamo a fare il cornering ad Adone. Siamo al sicuro da Maria? Chi lo sa, non l'abbiamo più vista. Forse è il momento di fare un po' di interrogatorio. Cioè, speriamo non sappia volare, le spuntano le ali a questo punto, perché sennò veramente è impossibile. Volare. Era arrivata da noi volando, quindi non mi sorprenderebbe. Mi fa spallucce, fa... Forse siete più gentili voi di me, dell'approccio. Mi avvicino, vado da Adone. Quindi scendi le scale, perché loro sono sotto coperta a fare tutta la preparazione. Sì. Okay. Tanto di tutto questo, Adone, vedi che si è tolto almeno la giacca, che comunque per te è bizzarra, ed è in camicia e pantaloni, con ancora il gilet, vedi che sta tendendo al fuoco. Sì, sì. Prima di scendere dico agli altri, qualcuno di voi tenga d'occhio il mare, ci serve una vedetta. Prego, io sto... Mi arrampico in cima al pennone. Sì. È una prova di scalare, devo andare a di mare. Serve Fanny, ma se lo fai con calma, no. Ok, lo faccio con calma. Ok. Quando scendo giù. Sì, ci sono Adone e Daku che stanno preparando il pesce, e nello specifico c'è Adone che lo sta cuocendo usando la bacchetta. Fare le fiammate sarebbe molto pericoloso, quindi semplicemente lo stai, mm-hmm. l'hai messo la bacchetta sul pesce o viceversa. Avete bisogno di una mano? No, abbiamo quasi finito. No, tra poco è pronto il pesce, direi, te lo sta guardando. Se non ti dispiace, Adone, vorrei farti delle domande. Adone si gira e dice, certo, poi si gira verso Aku, poi si gira di nuovo verso Nibel e dice, adesso? Non è meglio dopo cena? Se vi devo sarebbe meglio adesso. Vado di sopra. Ho già cucinato il pesce, posso tenerlo d'occhio io in caso. Se puoi farci questo favore, Aku. Lui mette il coltello lì e dice, non c'è problema. Tanto il pesce è già pulito, sì, o c'è ancora da sfilettarlo? Va solo cotto. Ok. Allora prendo il coltello e comincio a pulirlo. Comincio a fare pulizia banalmente, niente di particolarmente strano. Poi riposo il coltello, non era per essere minaccioso. È passato abbastanza tempo oggi. Cosa è successo prima? Prima ho... credo di aver utilizzato una parte di poteri che non sapevo di avere. E... ho visto per un attimo nel futuro. E ho visto che se non avessimo... se non fossimo intervenuti, se non avessimo fatto qualcosa... Maria avrebbe ucciso tutte le persone nella piazza. Avrebbe utilizzato le sue lame per fare una strage. Almeno questo è quello che ho visto io nel futuro. E allora ho deciso di evitarlo. Che ne è stato di lei? Credo sia morta, se non lo era già. Questo potere dobbiamo temerlo anche noi oppure riesce a tenerlo a bada? Io non ho alcuna intenzione di farvi del male, non mi avete fatto nulla. Non avete fatto nulla contro di me e appunto ci stiamo aiutando a vicenda, siamo tutti compagni. E vedi che fa un sorriso un po' forzato in questo momento. Certo, mi fido. Era solo per sapere quello che è successo. Dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi giorni, per me è solo un'altra situazione strana. Ok. Beh, lo è anche per me. Nibel, posso farti una domanda? Certo. Cos'è per te l'anima? Non saprei, non sono una persona religiosa. Come una parte di una persona? Come il cuore, come il fegato. E cosa penseresti di una persona senza anima? Mi chiederei come fa a essere in vita, suppongo. Diciamo che fino a un mese fa, probabilmente, forse un po' meno, non so quanto avrei creduto all'esistenza dell'anima, ma dopo tutto quello che ho visto... anche la più stolta delle persone incomincerebbe a razionalizzare alcune cose. Sono d'accordo. Abbiamo visto tante cose in quest'ultimo periodo. Una più assurda dell'altra. Se per me è già assurdo l'esistenza dell'anima, non è così tanto più strano l'assenza di questa in una persona. Vero? Credo che dito che semplicemente vorrei capire meglio cos'è un'anima. Cosa comporta averla o non averla. Avere un'anima ci rende umani? Non averla ci rende qualcos'altro? Bella domanda. Faccio un goccio di liquore. E invece averne più di una? Adone, vedi che per un attimo ha un piccolo sorriso che però gli passa quasi subito. E dice... È un quesito a cui devo ancora trovare risposta. Chiaro. Saremo qua per ascoltare quando lo troverai. Nibel si alza. E altre domande? Adone ci penso un attimo, dice no, non credo di avere altre domande per il momento. Do una pacca sulla spalla, comincio a fare due passi. Ah, Adone. Sì. Il pesce sta bruciando. No! No, si gira! Sta bruciando il pesce! Sei a pelo, senti un bello odore. No, no, via, via. Di sopra, nel frattempo, è salito Aku, che vi vede concentrati sul mare, e vi sussurra, ma in modo che lo sentiate, ma quei due... Mi si scoppia a ridere. Cioè, proprio la sentite anche da giù, cioè proprio è il quello che ha tutta la tensione, no? E cioè, sia Nibel che Adone hanno la fede al dito, credo. Che tipi di fede diversa? Nibel ha i guanti, tecnicamente non è visibile. Ah, vero. Ok. Vabbè, ok, via. Può saperlo, vero. No, no, anzi, se ci vuoi provare, vai, vai. Con chi due? Che cazzo sono io per giudicare? Quello che ti pare. Giusto. Magari tutti e due, che ne sai, riceveranno. In mare, quello che succede in mare rimane in mare. Voi state bene? Cioè, so che Adone... Sì, ciao, Lieto è sul pennone. Tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Con la pancia piena sarà un po' meglio. Come ci mettiamo d'accordo per i turni? La notte? Posso fare il primo, poi sveglio uno di voi e ci diamo... Cioè, vedete come volete. Organizzatevi voi. Magari due alla volta. Uno che guarda il mare, uno che... Sì. Sapete sta al timone. Guidare la barca? Destra, sinistra, zitto, giusto? Più o meno, devi gestire il vento, devi... Rischiamo di andare fuori rotta se non segui le correnti e tutto. Ma okay. Altrimenti possiamo semplicemente gettare l'ancora e muoverci un po' più lentamente quando io dormo. Come preferite. Nah, ce la facciamo. Siamo arrivati fino qua. Figurati se non riusciamo a guidare questa barca fino alla destinazione. Magari ci puoi fare un corso accelerato mentre sei sveglio. Beh, non sarebbe male. Sì, il corso per i casi semplici. In quel momento riaffiora Nibel. Il corso per i casi semplici è semplicemente tenere il timone dritto e avere dei punti di riferimento da seguire, in genere una stella, una costellazione. E se si sposta troppo dovete aggiustare la rotta. Io intanto sto impiattando bambini a tavola. No, però dietro si lancia dal pennone. No, bisogna stare, cioè si sta più larghi di sopra mangiando. Okay. Seduti per terra. Sì, sì. Oh, allora io... Mamma mia. Allora io impiatto e poi anch'io salgo su con i piatti, insomma. Ok. Ok, intanto c'ho il coniglio che mi saltella intorno. Ha diviso 3 pesci in 4 piatti, non c'è tantissima roba da mangiare. Nel senso, se ci fosse qualcosa da aggiungere sarebbe meglio per tutti i presenti. Le pite, Miff che si tira da sotto, non lo so, qualcosa, le pite! La faccio yu-yu e faccio crescere un albero da frutto da qualche parte, prendi. Oh, questo legno che hanno utilizzato, magari... Cosa? No, ce l'ho, non ce l'ho plant growth. Lo so, però potevi prenderla e faceva quella cosa lì. E fa culo, potevo fare tante cose nella mia vita. Vero. Yu-Yu credo che eri solo corteccia, se ti vuoi mangiare la corteccia. Puoi fare il legno da accendere per il fuoco, quello sì. Vabbè. Fare l'albero. Magari dopo. Sì. È sera, ma si vede ancora, cioè c'è il tramonto che fa ancora un po' di luce. Io al massimo uso della bacchetta per fare luce, la metto in centro come candela. E vabbè, una lanterna. Togli 4 pite. Ma scusami, non posso anch'io? Vuoi mangiare anche te? No, Adone quando vede che Miff tira fuori la pita dice posso un anch'io? Miff tipo alza il sopracciglio, no, beach face, fa non eri tu quello che non aveva bisogno di nulla? Se hai ascoltato bene, ho detto che nonostante non ne sento il bisogno è meglio che continui a mangiare, almeno vedo cosa succede. Upla! Il pesce era poco, ve l'avrei lasciato prescindere. Miff ti porge insomma le pite, prendi quelle che vuoi. Prega che non siano avvelenate. Togli una pita dalla lista. Quindi faccio 3 adesso. Più avvelenate delle tue parole, non credo, Miff. Miff ti fa un bacio, tipo. Wow. Ignora, bellamente. Ok. La lasciamo e poi stacchiamo un po' prima. Così siamo tutti contenti. Avete questo momento conviviale e se volete discutere, dialogare, parlare del mentre mangiate potete. Aku è impegnato. Insomma, fa schifo questo pesce. Senza sale, senza niente, senza, cioè proprio raw. Lasciami noi. C'è il sale, c'è l'acqua col sale fuori. Qualcuno vuole? Bastava farla un attimo bollire. Vabbè, il salamoia. Dalle mie parti il pesce è più buono. E viene già congelato. Cazzo, vieni uomo. Glielo chiedi? Sì. Vengo da Calbard. Non c'è sulle mappe questo posto. Sì che c'è, è un'isola di Porto Leone. Quella ghiacciata? Sì. Che mi dicevi anni fa? Sì. Ah. Huh? Come fate a viverci lì? È un posto come siamo un altro. Fare una... Fa un po' freddo. Un'isola congelata. Sì. Più freddo del nord o meno? Porto Leone. Non dovrebbe essere più caldo di qua. Sì, Porto Leone lo saprà cos'è l'equatore. Sì, lo sanno per la terra sferica. Sì, è sull'equatore Porto Leone. No, le mappe sono piatte. Non è un idiota, lui ha navigato. lui sa com'è fatto. Wow. Come fai? No, se la pieghi poi torni indietro, no? Ma lui nessuno ha ancora fatto il giro del mondo. Che c'è? Sì, ma non mi fido molto di lui. E come mai è ghiacciata? Cioè, come fa ad esserci freddo lì? Ci crescono i calmù. Sono queste alghe simili a piante lunghe che mangiano il calore. E quindi l'acqua è ghiacciata. Che si mangiano il calore dell'acqua. Come fate a navigare con il mare che... Le navi di Calberd sono dei cioè hanno dei rompighiacci sul davanti, hanno proprio una parte che lo spacca. E poi siamo tutti uomini forti, pronti a spaccare il ghiaccio alla prima evenienza. Wow, veramente. La scena iniziale di Frozen, comunque. Wow. È vero! Letteralmente, è vero. Il ghiaccio e vanno a vendere il ghiaccio. Molto bello. E cantano che sono degli uomini veri, se non mi ricordo male. La canzone era quella, tipo. Sì. Vero. La mia famiglia ha un negozio da tante generazioni e vendiamo il pescato di Calbard e tutta una serie di altre cose utili. E tu invece sei in mare? Sì, sì, abbiamo... cioè sono tutti pescatori che poi vendevano quello che riuscivano a prendere nel negozio. Ma io ho preferito andarmene, non era... era troppo noioso. Sì, effettivamente non sono rimasto legato al mare. Al mare sì, non a casa mia. Gli animali di Calbard non erano così interessanti da cacciare e una volta ammazzato il primo Leviathan, Porto Leone non ha tanto altro da offrire. Beh, ho sentito che i mostri del nord sono più grandi e pericolosi di quelli molto del sud, però... molto più grandi. Ok, quindi non era una menzogna. Sì, pericolosi non lo so, ma essendo così poco abituati alle persone è facile ammazzarli all'improvviso. Cioè, come quell'altro, e tipo Mif guarda lo scudo che magari è appoggiato da qualche parte. Se un animale non conosce la magia e non conosce le tattiche di caccia, è facile batterlo. Però. E voi cosa avete cacciato di bello nella vostra vita? Gane, un sacco di gane. Recentemente un dio. Due, diventato, be honest. Dieto. Siamo già a quota 2? Tecnicamente non erano cioè, vi fa, tecnicamente non erano dei. Solo uno ne abbiamo visto, di vero. Di sicuro mi ha gonfiato di botte come un dio. No, è vero, era un avatar. Si è incazzato con la storia della Mana Penny. Per malo, questi dei. Salvarici è sempre strano. Puoi sapere una storia, Aku? Oh, certo. Rimetti che forse abbiamo sbagliato. Intanto, così non perdiamo tempo. Che forse abbiamo sbagliato a non fare offerte prima di partire. E come mai? Lieto fa una delle tue magie, I guess. Your time to shine. No. Do something. No, cosa devo fare io? Devo portare sfiga. Riavvolgi un po' il tempo, non lo so, cioè... se lo riavvolgo e torna indietro per tutti quanti, non avete modo di sapere che l'ho fatto. Come? No, dai, quando fuori hai rimesso il tappo al liquore... Quelle cagate lì, dai. Quello era tipo prestidigitazione, però sì, cioè, ci sta. Dai, gli faccio la solita roba, tipo... Fai cadere una cosa che ti torna in mano. No, fa passare un po' di tempo e poi ti ritorna in mano. Con la tele cinesi lo facevi uguale, se non meglio. Però se non meglio. Fai un trucchetto di quelli e lui dice... No, vabbè, dai, posso provare a fare tipo cambiare lo stato al pesce, cazzo ne so. Se ci ha avanzato un pezzetto. Dio, sì, fai ritornare. Questo è figo. Tipo infinito, non so. No, solo che cambia solo lo stato in cui è, che passa tipo da cotto a crudo, ma non cambia la quantità. Fixi il cibo che aveva, stava per bruciare ad ore. Ah, conosco persone con poteri magici più forti, quindi se questa è una divinità... Lieto ancora le prime armi, dai, vero, Lieto? Da quanto è che hai questi nuovi poteri? Quanti giorni? Uno! Aspetta un giorno! Lieto ha fatto di più, e sì, Adore ha fatto di più. No, scusate. Sì, però Adore non l'ha fatto alla disclosure di quello che ha fatto, quindi... Esatto. Comunque, visto che siamo nel discorso, io vengo da Porto Leone. Non so quanto è famoso dalle vostre parti, ma nell'antichità era la città delle tre dee. Liviagon, Dasadin, Mesdin, e Liviagon, Mesdin e Hierakos. E quindi abbiamo una tradizione di divinità molto eterogenee. Liviagon fa parte del Pantheon Acaias, quindi di dove eravamo prima. Mesdin è una dea del deserto e Hierakos credo sia una cosa nostra, cioè c'è dalle altre parti. E cosa fa quest'ultima? Hierakos è una specie di dea della vittoria. E in genere protegge le persone, guarisce le malattie, è una buona divinità. E protegge Porto Leone, ovviamente, cioè la dea di Porto Leone. Ci sta. Dalle mie parti si che fanno... Che simbolo ha quella dea? Che? Che simbolo... Avranno dei simboli? Sì, Mesdin le icone. È una leonessa. Liviagon, un polpo, credo. E... Sinceramente su Hierakos non ti saprei dire, è una donna alata? La statua di Hierakos è una donna alata? Amo, donna moment. Il microfono. Esatto, il microfono. No, sta muovendo il microfono. Ok, scusate, sì, sì. Mi ha messo male. Okay. Dove mi avete perso? Polpo. Polpo. Okay. Liviagon credo abbia un polpo, comunque una donna polpo, qualcosa del genere. E Hierakos invece è una donna alata, c'è cioè una statua di Hierakos, una donna alata proprio sul molo di Porto Leone. Mif si gira verso Adone e fa, sai che iconografia ha la moneta di Porto Leone, Adone? No. Un leone alato. Beh sì, il leone è un simbolo della città, così come le ali. Esattamente per questo. Non ho capito il collegamento. Non fa niente. Importa, che sacrifici vengono fatti di solito prima di partire in mare? Generalmente si prende una parte del pescato dell'ultima battuta di pesca e si lancia in acqua. Tu però nel caso non avevi una barca nuova, non avevi del pescato, cosa avresti offerto? Oro o altri oggetti di valore per un pescatore, armi, altre cose. È una cosa simbolica, ovviamente. Certo. Mio nonno raccontava, mio nonno era un pescatore come me, cioè pescava con l'arpione, e raccontava che durante una caccia un mostro lo stava per mangiare e fu proprio la dea Hierakos in persona a salvarlo, scendendo dal cielo per tirarlo fuori dal mare. Però il nonno beveva un sacco, quindi... Avanzato. Ma ancora vivo? No. Cipigna ci avrebbe potuto conoscerlo. Avrebbe più di 90 anni. Manco così tanto. Per modo di Faithless, sì, 90 sono tanti, mica. Cioè, sono veramente tanti. E Miff tipo fa spallucce e fa, in vita ho visto comunque gente molto anziana. Stranamente, è raro vederle. Vabbè, era un magister che... adesso che ci penso. Tipo, Miff fa, era un magister adesso che ci penso. Come? Quando è che tu hai studiato un magister? È stato diversi anni fa, in realtà. Stavo facendo un contratto lavorativo. Mi sta pensando se può parlare di questa cosa. Cioè, sul contratto non aveva clausole da quel punto di vista. Era magico. Sì, ma okay. Comunque non avevi l'anima come cosa, quindi se rompi il contratto... Esatto, esatto. Cioè, quindi... a posto. Ok, perfetto. Stavo facendo un contratto per, insomma, l'azienda di mia madre. Due individui molto particolari sono venuti a parlarmi, venivano dall'impero. L'uomo era anziano, era vecchio, i lineamenti, non dico unici, ma riesci a riconoscerlo. Tra tante persone, vestito veramente tanto bene, cioè aveva i soldi. Però lo scettro è particolare. Era intarsiato con qualcosa, aveva iscrizioni, non conoscevo la lingua, non, insomma, si vede che era di qualche posto che non ho visitato. E anche suo apprendista, interessante. Ma che si chiamava? Un certo Devin? Un certo Devin? Devin? Sì. Non... Sì. Devin è stato apprendista di un magister? Non so se stiamo parlando della stessa persona. Devin... Capelli neri... Capelli neri... Stronzo. Ah, stronzo, aria da pazzo. Occhi da pazzo, soprattutto. Oh, dai, insomma. Gli piacevano i cioccolatini, però. Adone sospira e dice... Mi sorprendo che siamo riusciti a... fermare... quel Devin. Mi fa tipo... Oh? Non sarebbe l'ennesima persona pazza che io conosco nella mia vita, onestamente. Però non pensavo così degenerato. Cosa ha fatto? Era... Che poi per me è difficilissimo da ricordarmi cosa è successo. Però non è stato settimana scorsa. Quindi... No, no. Cioè, un pochino è passato. Sì, ma anche due, tre. Specificare, sì, okay, sì, esatto. E... Allora la donna dice, con più, con un po' più di sicurezza di come te lo dico io, ma diciamo che me lo ricordo principalmente per le sue idee razziste che ha rivelato, ma era convinto di, dove era il punto? Essere convinto di dover accedere a qualche potere superiore per ricostruire il mondo come voleva lui. Poi vedi che Adone fa una piccola risatina. Ma sì, non era una persona con tutte le rotelle a posto. Chissà se lo è anche quello. Chissà se lo sono i magister in generale. Quel no. Tizio conosceva un sacco di magie. Cioè, proprio mi fa un sacco di magie. Non ho mai visto un mago con così tante magie. Cioè, non mi è mai successo, veramente. Sicuramente una persona potente. Ma il magister che ho conosciuto io è abbastanza chill, in realtà. Anche il mio era abbastanza chill. Sì, hai incontrato un magister. Infatti. Due magister. Nel solito momento. E no, è come mi stavo pagando l'università prima di partire per questa cosa. È stata una piccola riappropriazione a casa di uno di questi due magister. La corona? Sei rubato, lieto. Una buccia d'arancia. Assumerò che non era una buccia d'arancia. Un forziere e una buccia d'arancia. Il frizzone nello specifico conteneva la buccia d'arancia. La buccia d'arancia è... adesso ce l'ha mia madre. Non chiedete. È cosa tipo la pestilenza. È la pestilenza fatta a oggetto. Trasforma tutto quello che tocca in una copia di se stesso. L'unica informazione che ho ricevuto da Promezia, mia madre, è che venisse... No, dio la stessa cosa. Non l'ha detta questa cosa, andiamo avanti. È che provenisse da un altro mondo, detta sua, back in the days. Un altro mondo? Le ho riso in faccia e ho tirato dritto, sì. È stato molto divertente. Sì, sì, lei e quel suo stupido libro blu. Libro blu? Che tipo di guardia ti fa? Che... Quanti anni fa è successo? Quando è che ha usato il libro blu? E tipo un biff che ti prende le spalle, no? E fa, che libro blu? Com'era questo libro blu? È proprio come quello che abbiamo trovato noi, adesso che ci penso. Funzionava? Ma e ci ha castato delle magie. Ti ha castato delle magie? Cioè... Ritorna, guarda il suo piatto con le lische messe da parte, no? Gioca un attimo con le lische e fa... Non è possibile. Ci ha castato la magia di Arva. Ha fatto riavvolgere il tempo in un determinato punto. Molto bello. Oddio. In che punto ha riavvolto il tempo? Una colonna di pietra sulla spiaggia della... Francia, se mi sto ricordando il nome della... Regno Lumiera. Lumiera. No, Lumiera è Parigi. Ah, giusto, fuori. E... perché ci avevo nascosto sotto la buccia della cosa, e si era propagata il maligno per tutta la spiaggia. Colonna, maligno, spiaggia, sassi, anche l'acqua. E quindi ha riavvolto il tempo. Perché non riutilizzare il forziere dove era contenuto l'oggetto? Il forziere era il pagamento che dovevamo dare ad Aidos. Fermati un attimo, aspetta che arrivi, eccoci. Aidos? Ah, sì, sì, si chiamava. Guardo Miff. Tipo, cioè, Miff, blurp out, il demone. Il demone? Beh, una persona normale. Fermi, chi cazzo era Aidos? Aidos non era il tuo amico di Miff, no, questo lo chiede Sirio. Poi Deimos, quell'altro. Basta, no, mi... Aidos era il maggiordomo della principessa. Eccolo, è Aidos! Il tizio che avete ammazzato, ok. Sì, lo so, io Sirio, okay. Sì. Okay. Aidos? Quell'Aidos, sì, lui. Ah, quello che avevamo ammazzato. Sì, sì, sì. Sì, voleva era un forziere che riusciva a contenere l'effetto della buccia d'arancia. Sappiamo per cosa l'ha usato. Bravissimo. 10 punti a Grifondoro. Tra l'altro, pausa un attimo. Vai. Che avete portato via il cuore e lasciato lì il forziere dal valore inestimabile. Porca droga. Scusa. Drammatica per il cazzo. Drammatica per fottere il forziere, cioè ne vale la pena. Scusate. Sì, no, certo, adesso, però adesso c'è una pergamena. La reazione di Aku a tutto ciò. Madonna, veramente. Oh mio Dio. Wow. Tipo, mi fa sto punto guarda lì e le fa. Oh. Era troppo tempo che non parlava e mi sa che. Esatto. Ah, esatto. È stato kickato di Ci sono, che buono, non lo so. Il film. Ok, mi fa sto punto, si gira verso Nibel, gli occhi, cioè, penso che il suo ultimo briciolo di sanità veramente è finito in mare. E... conosci anche tu questo Aidos? No, perché se siamo a 3, arrivare a quota 4 ci vuole un attimo. Non che io ricordi, non penso. Grazie al cielo. Ok. No, chissà quali conoscenze, purtroppo. E... no, niente, sì. la buccia ce l'ha chiamata. E se ti interessa, era il 1620. Anni fa. Mi sa che inizia a contare, no? Fa. Gennaio 1900. Faceva un freddo cane. Cioè. Tipo, mi sono pure bagnato due volte per salvare la cogliona di come per noi. Ha ricevuto il libro tua madre? Ah, questa è un'ottima domanda alla quale non ho avuto una risposta. Aspetta. No, se l'hai avuta. Si fate i cazzi tuoi. No. Me l'ha regalato mia moglie. Ehi, vivo, gliel'aveva regalato Promezia, la nuova moglie di mia madre. L'archeologa. Petri. Ok, tu non so se sai che si chiama così, però sai che lei si era finta Promezia Petri per infiltrarsi durante il furto. No, la va. Lo sapevamo che... È vero che si chiamano tutte Promezze. Lo sapevamo che Promezia Petri era sposata con Promezia madre di Nieto? No! Sì. Io non mi... no, qualcuno l'aveva parlato, se mi ricordo. Infatti anche secondo me, soprattutto... Si è fatta i viaggi con... Miss si è fatta i viaggi con Naya, quindi... Posso dire una cosa comunque? Sapeva. Che cosa da omosessuali metterti con uno che ha il tuo stesso nome? Paro. No, una si chiama Pronoi, l'altra si chiama Promezia. Allora, facciamo che Adone l'ha detto e ora Lieto glielo mansplaina, prego. La mia madre si chiama Pronoi, Promezia è il nome del cazzo che usa quando fa le missioni della Corona Nera perché ha una testa di cazzo. E siamo d'accordo. Il vero nome di mia madre usa il nome di... Usa il nome di sua moglie? Sì. Non vedi come cazzo è intelligente quella donna? Esatto, è quello che ho detto anch'io. Massimo può dare la colpa alla moglie. Vedo che abbiamo tutte figure, tutte mamme molto messe bene in testa. Sì, l'abbiamo già menzionato questa cosa. Già. Nessuna promessa è normale. Comunque, parlando di libri azzurri, io credo in verità di essere stato il primo fra di voi ad averci messo le mani. In che senso? Sapete che vi ho detto che... come ho accennato prima a Nibel, che ho utilizzato delle magie. E queste magie mi hanno portato... Mi hanno fatto riafferrare dei ricordi. Ecco, in uno di questi ricordi ho... incontrato quell'uomo che conosciamo bene, Mif. Sì, lui. È tipo... Nel 1614, questo. Forse no, tu e Naya lo avete ricevuto da piccoli. No, avevo 20 anni. E quindi... Nel 1614, 7 anni fa, mi sono ricordato di aver incontrato quell'uomo e di aver visto quel libro. Ora. Rosa. Non vai. Era blu. È vero, era viola. No. Ne hai visti due. Uno era viola e l'altro bianco. Oro. Uno era bianco. Bianco oro. Sì. Allora Dune Scrooge dice... Ok, non era effettivamente il libro blu. Ha dato due libri, uno viola e uno bianco, ma non quello blu. Viola? Sì. Viola come quello che ha dato ad ora? No. A ora ha dato... E ad ora realizza, dice... Sì, io ero in compagnia di Ora e di un'altra persona di cui... di cui ora non ricordo il nome. Se non sbaglio, qualcuno aveva menzionato una persona con vestiti viola? No. Sì. Prego, sì. Faccia un roll, dottor Lieto. Con vestiti viola? Il dottor Rieta è un po' confuso. No, rolla e si fida del roll. In che cosa? Schietto. Vicente. Assumente. Ti ricordi che hai avuto un incontro quasi sessuale ad Apeira? Ti ricordi che, a parte quella volta che hai scopato nel bordello, dico, a parte quello, ti ricordi che la tipa in questione era in grado di castare un rituale particolare per vedere le cose da lontano? Non lieto a rimosso questa informazione nel caso. L'ha detto anche a Mif, credo. L'ha detto a un paio di voi, non mi ricordo chi. E aveva fatto vedere, cioè aveva visto che ad Oclica c'è una sola persona rimasta viva e non trasformata in macchina ed è vestita di viola. Esatto, quello è stato Deimos. Con Mif. Sì, no, c'hai ragione. Infatti. Cioè, era sempre stato qua. No. È stato Deimos che a casa sua ha detto a Mif che aveva un'amica che sapeva fare queste cose qui che le ha detto queste cose qui e che c'era una persona letteralmente che era vestita di viola con sto falcione e andava ad ammazzare tutti e stava ancora in piedi. Devo sistemare un attimo il letto, datemi un attimo. Vado a prendere un dolcetto, arrivo subito. Su questa suspense incredibile, suspense. L'ha messo lì l'orso. Veglia su di te. Secondo, visto che Ika era stato fagocitato dall'oscurità. Sì, ho stato fagocitato dall'oscurità. Sei andato a prendere il powerbank per caricare il telefono. Pensavo fossi diventato tutt'uno con l'uomo che ride. Tanto Ika, come sta il tuo piede? Va bene, in realtà adesso zoppico solo poco. Dai. Sì, sta. Solo che tu va bene. Lui lo ha chiesto gentilmente. Non l'ha detto foto piedi, please. God damn. C'è modo e modo di chiedere. Fa vedere per favore. So. No, comunque sta bene, l'abbiamo visto che stava bene. Sì, lo so che l'avete visto che sta bene. Che maniaci. Ti ammazza te. E vabbè. Ma mi ero tipo, ah che bello, mi è passato il mal di testa eccetera. Sono un attimo andato di là. Ho visto che c'era mio padre, sono tornato qua, mi è tornato il mal di testa. Basta vedere. E le cose non sono assolutamente collegate. Ma come sta andando adesso in caso? Ieri hanno fatto un full 180 e top 5 cose che mi hanno detto che io accorcerò la vita alle mie nonne, che il motivo per cui mio padre non ha amici è perché io sono trans. E come sta succedendo? No, cioè quella della nonna la posso capire, to be honest, cioè ci sta, dai. Perché io gli ho detto... Beh, non deve saperlo per forza. No, però... Perché io da tipo 5-6 anni che gli ho detto che so di essere trans, ma loro lo sanno, cioè siamo andati in vacanza tanti anni fa con una mia amica, ok? E mio padre ha detto che dopo quella vacanza lì i suoi genitori hanno smesso di parlare con i miei, di uscire, e secondo lui la motivazione è perché sanno che io sono trans e quindi non vogliono. E quindi la sua risposta non è tipo ok, sono delle persone di merda che non rispettano mio figlio, ma no, no, oppure peggio, cioè credo che siano convinti che tipo, visto che loro lo sanno e loro no, non volevano per cose. La verità è che cioè, l'ho scritto alla mia amica Alice, e la mia Alice fa no, semplicemente i miei genitori non sopportano tuo padre. Gliel'hai fatto presente? No, non gliel'ho ancora fatto presente. No, come no, fai capatana? Devi girargli il messaggio. No, no, che screenshot? Condivisci proprio ti giro il messaggio a Feofio. Ti do il telefono, tieni. Guarda, secondo me darebbe la colpa a lui comunque. Sì, sì, è per questo che non lo dico, perché tanto non serve assolutamente. Vabbè, almeno ti togli una soddisfazione, cioè cazzo te ne frega. Non gliene frega finché ci vive lì dentro quel posto. Sì. Quello... E vabbè, cosa fanno? Ti mando fuori di casa, Stonks. Ah sì, ho menzionato... Ah sì, tra l'altro mi fa straridere perché stasera mio fratello ha detto eh sì, perché ieri avete detto delle cose pesanti, la mamma e il papà hanno detto che accorci la vita alle donne, che è colpa queste cose, eccetera, eccetera. Tu hai detto che le persone trans vengono picchiate. Fra, non mi sembra la stessa cosa. Io ho portato un dato di fatto statistico senza giudizio. Loro mi hanno detto che sono un mostro, però vabbè, ok. Lo so. Mio fratello lo sai che sarà... è autistico, quindi è 1-1, pari. Sì, ovvio. No. Sì, uno, sai, ma tu stai mangiando 5 cose che non puoi, tipo? Sì. Okay, allora... Comunque, stavamo dicendo, il tizio vestito di viola. Giusto. Prego. È Nutella per persone normali, non per... Cazzo, che cazzo di Nutella è quella, tra l'altro, perché puttana? Quella natalizia. Ah, natalizia. Agli alberini di Natale. No, è il chilo, è il 7,50. Una volta prendavamo il chilo. Damn. Vai, vai. Chissà come mai, poi... volevo dire. L'uomo vestito di viola che ammazza le persone ad Oclica con una falce e un martello. E solo la falce e il martello. Hai il doppio delle falci e la metà dei martelli. Questa muore, questa sistemazione è colpa mia. C'è messo un euro ogni volta che c'è successo questa cosa, c'avevi 2 euro, sarebbe strano. Ho preso cose più grandi. Continuiamo. Sì, lo stavo pensando, ma mi sto trattenendo dal dirlo. Andiamo avanti. Dicevamo, il tizio vestito di viola. Voi sapete chi è, come si chiama? Non ne ho la minima idea. Dovrebbe essere un amico di Ora. Guardo lieto, visto che sta annuendo. Io volevo una mia, sì, voglio sapere come si chiama. Ma no! Cazzo, quella è la domanda. No, no, Lieto non sa niente di questa cosa. Chi ti sta nei fatti? Vabbè. E non appunto... Vabbè, e Adone conclude dicendo... Comunque... Quando sono arrivato... Non è importante... Cosa ho fatto, dov'ero, però il punto è che... Dopo che ho visto quell'uomo... È arrivato... qualcuno a farmi dimenticare di tutto ciò. Immagino appunto qualcuno dell'impero, Magister forse. Che ha fatto perdere la memoria? Deve essere stata la Istiera, ecco. Magister Isti. Quella che scrive la storia. Quella che cancellava la memoria della gente. E quella a cui ho rubato la memoria della gente. Oh signore, è da lei che ho rubato la buccia di arancia. Oh Cristo, sembra un vizio di queste persone cancellare la memoria alla gente a caso. Sì, sì, tra l'altro si era molto incazzata perché doveva cancellare la memoria alla gente dopo che avevamo evocato un demone per rompergli il cazzo. Ah, avete fermo, un demone? non un diavolo, non un dio, un demone avete evocato. Yes, yes. Con un sacrificio umano è stato anche abbastanza cruento. Immaginavo. Ci sono altre cose che vuoi aggiungere dietro? Altri pezzetti a questa storia? Sì, non lo so, qualcos'altro. Non lo so, ci manca veramente solo un avatar in questa storia. Ah, sì. Ah, no, vabbè, sì, c'è un altro pezzetto. È stata una giornata molto lunga e particolare quella. Ho giocato a scacchi con Sheeran's Book. Cosa? Per andare nel posto in cui doveva andare, ci siamo dovuti, siamo passati da Lumiera, mi sono fermato e sono andato in università a vedere com'era. E c'era lui che giocava a scacchi e mi ha chiesto perché se lo fai. Perché sei passato in università a vedere com'era lui? Ma lì dovevo stare il più lontano possibile da Pronoia, anche quella mezz'ora in cui bisognava aspettare il cambio del treno. Mi ricordate, era il direttore generale delle infatti, ok, perfetto. Presidente, signor Presidente. E vabbè, la sala morta. Comunque sì, è proprio lui. Wow. Com'è? Chiediamo che tanto join al discorso. Com'è come persona? Oh, è sembrata molto simpatica, ha detto di essere completamente immune alle magie. Perché te l'ha detto? What? Boh, stavo facendo conversazione. Così che probabilmente non ha paura di farlo sapere a qualcun altro. E sì, ha detto di essere completamente incapace di castare magie, ma questo lo rende anche immune a molti tipi di magie. Solitamente le persone dicono i propri segreti quando sono sicuri che qualcun altro lo dica, ha detto la stessa cosa a me, non preoccuparti. O che non ci siano modi per fargli pesare. Beh, stimolo le magie. Ha una pistola? No, però. Sì, sì, sì, no, no, quello è. No, non dice questa cosa, Thor. Benissimo di sparargli. Però sì. Pensa, in un mondo di sovrannaturale, lui è immune al sovrannaturale. Non ha le palle di fuoco. Quello dipende. Fino a un mese fa, se mi chiedevate del soprannaturale, avrei detto che erano solo leggende, quindi. Non so. Minchia, avrei voluto essere te. Cioè, proprio un miff. Miff. Ah, giusto, sì. Posso rollare per vedere se riesco a ricordarmi il pentacolo da cui è uscito il demone. Certo, prego. Anzi no, lo diresti adesso che demone è? Cioè, non so che tipo di demone è. Era una roba brutta con delle ali che volava. No, il pentacolo. Perché tu oggi Lieto sa a che cosa corrisponde quel sigillo. Sì, Ica lo sa. Lo sa, tra qualche minuto lo saprò. Perché penso? Cosa vuol dire? Non me lo ricordo. Perché lo sta cercando? Manco lui. Ah, cazzo, ma quella c'ho anch'io forse. Sì, ma cazzo, una figata. È perché la mia avevi mandato il libro dei demoni. Ce l'abbiamo. Il diavolo in questione nei libri di demonologia si chiama Diazen. Fa anche un altro nome. Ora te lo cerco anche l'altro nome. Diazen. Tanto fammelo appuntare. È un acronimo. Cioè, non è un acronimo, è quell'altra cosa con le lettere. Sta per diavolo senza nome. Diazen. Il diavolo senza nome? Sì. Perché è familiare? Questa è patrono maledetto staff. Sì, il diavolo senza nome è l'unico che mi ricordo. Cioè, non è l'unico che mi ricordo, cazzo dico. No, ma fermo, diavolo o demone? Diavolo. Ok, che cazzo c'entra adesso il diavolo? Diavoli e demoni sono... No, non sono la stessa cosa. Il sigillo è di un diavolo. Ah, evocato. Ok. Sì. Perfetto. Sì. E... posso disegnare il sigillo? Puoi disegnare il sigillo, sì. Questo, e ci uccidi qualcuno dentro. Possiamo vedere il sigillo, master? Non ce l'ho portata in mano, purtroppo. Ve lo do dentro la prossima sessione. Una non cosa. Succede niente, allora, ho capito, non il sigillo. No. Tra l'altro, anche tu l'hai già visto. L'ho già visto. Pare che solo quello là era maledetto. Tanto, cioè, il sigillo maledetto. Questi sono sigilli. Sigillo maledetto. Sì, tanto rifare i sigilli, appunto, non ha effetti nel concreto. Non ha detto, non ha pronunciato nessuna forma, non ha detto niente il tipo per evocare il demone. Gli ha dato un comando. Sì. Non basta disegnarli, l'ho provato sulla mia stessa pelle, fidati. Ok. Sì, nessun problema. Quindi se un demone può essere evocato da un sigillo di un diavolo, vuol dire che Aedos è stato evocato da un sigillo da un diavolo. Perché ho detto di sì a quel contratto? Quello che hai fatto con il tizio delle centrali? No, quello ho fatto col Magister. Quando è venuto, praticamente voleva che modificassi una clausola, una delle tante che abbiamo per l'utilizzo dei medikit. I medikit possono essere utilizzati strettamente su persone. Se no si perde la garanzia, perdi il contratto, ti vieni multato, cose di questo genere. Volevano che io aggiungessi una clausola che desse spazio a un po' di più che solo le persone. Umanoide, anziché... È una parola sì, semplice. A quanto pare il Magister l'ha visto subito, che ho fatto degli incontri paranormali. Oh no, un altro Magister che legge la mente. Non penso. Spero di no. Leggere la mente. Non ho incontrato una donna, ho incontrato un uomo. E quindi sì, non lo so. Ho fatto una ricerca pazza i giorni successivi. Se non sbaglio, secondo me è quello della magia. Magus era magi. Può darsi sia lui. Conosceva la spell che riesce a castare Middle con il Manapelle. Ripeto, conosceva. È morto? No. Infatti, non ne ho la prima idea. Speriamo di sì. No, non hai capito lì tu. Conosce quella spell, non ha bisogno di un tramite per castarla. La conosce. Vabbè, abbiamo appurato che la magia ha bisogno del Malapenny a questo punto della nostra vita. Quindi. Anche Kronos l'aveva lanciata senza tramite, mi sembra. Non è l'unico altro che hanno lanciato magie senza. E appunto le persone che conoscevamo erano importanti, quindi anche lui avrà delle capacità. Okay. In ogni caso, no. Vuol dire che un diavolo? Aspetta che parto. I was just a chill guy fishing for baby fishes. Oh, gatto. Io non vi interrompo perché mi diverte, però quando volete. No, mi sa che Mi sa che è il momento di interromperci perché è tardi. Okay. Posso fare gli ultimi 5 minuti? Che cosa? Posso gli ultimi 5 Vai. Minuti? Ah, sì, sì, c'è. Ok. Aku interrompe, cioè cambia discorso, no? Certa, e dice: come mai stiamo andando ad Esboson? Per farla pagare a una persona che conosco, principalmente. Mi sembra un ottimo motivo. Chi di voi stava guardando, facendo la vedetta? Lit. Bene. In mare, a tribordo, vedete tutti cos'è tribordo, quindi non c'è bisogno che lo spieghi. Bordo, tribordo, bordo. Ora che è cambiato il discorso, quindi ti sei potuto girare e concentrare sul mare, vedi un pochino più in là rispetto alla nave, però facile da raggiungere. Sembra una persona in mare, a faccia in giù. C'è un cadavere in acqua. Cosa? È un cadavere in acqua. Vogliamo... Acqua normale che c'è nei cadaveri in acqua. Non particolarmente, in genere li mangiano i pesci. Forse è ancora vivo? Ce l'hai forse una... non è qualcosa di molto commestibile? Vero. Vabbè, io direi di lasciarlo lì. No. Se fosse vivo? Cazzo, tu te le cerchi proprio, Adone, però, eh. Anche se fosse morto da poco potremmo resuscitarlo. Per alzata di mano, quanti noi sanno sono di necromanti? Alzata di mano. No, nessuno, bene, andiamo avanti. Io avrei comunque un interesse. Vediamo cos'è, chi è. Vuoi succhiarmi l'anima? Timif. Sei contenta? Timif, just asking. Allora, tieni, questa è la cima, questo è il coso. Fai nuota. No, vabbè, ma siamo fermi in questo momento, piano, ci stiamo passando. Muovendo, state andando in una direzione un po' diversa, dovrebbe fare un detour per arrivarci. Il microfono. Non si microfono. Non so, probabilmente scarica la cosa. Può dare, sì. Dovreste fare un detour per arrivarci, perché voi state andando dritti verso l'isola, mentre questo è, rispetto alla vostra posizione, è un pochino a destra. Potrei... usare l'arpione per forargli una gamba e poi... Se riesci a prenderlo, sì. Il punto è che dovresti essere... Scusami. Scusami, non puoi mandare il tuo coniglio che sa volare a prenderlo e trascinarlo? E chiedo a Bianic, ma... mi sembra un po'... Quanto sa volare il coniglio? Perché abbiamo detto che è più una... Perché oggettivamente non è un uccello. Cioè, ho capito cosa hai... proposto Sara, ma il punto è che ha le ali perché le abbiamo messe noi di estetica, ma non saprebbe volare oggettivamente. Ora dimmi. No, è tipo una gallina. Io c'è. Ma se gli do la corda e non so fare il nodo ovviamente, però si mette sopra il corpo, tira la corda e tiriamo. Se ci avviciniamo posso buttarmi io. Ditemi voi se vi fidate o no. Diamo un'occhiata. Avviciniamoci. Mith che prende tipo la pistola di Lito per sparare. Ma è la mia pistola. No. Non la usi mai. Io do un'occhiata attorno al corpo, vedo ombre strane nell'acqua, una volta che ci siamo avvicinati. Non sembra esserci niente, cioè è abbastanza lontano che non vedi molto bene quella d'area, però non sembra esserci niente di strano. Ok, io aspetto che siamo proprio, che il corpo è a qualche metro di distanza dalla barca. Ok. Arrivate dopo una manciata di secondi in realtà. Il Aku ferma la nave, fa scendere l'ancora e dice: ci fermiamo per un secondo e poi ripartiamo subito. Vai. Ok. Qualcuno ha qualche idea nel frattempo? Sarà di essere pronti a fucilarlo se si muove? Sì, quello sicuramente. Ora che magari legati una corda, Steven. Ora che siete più vicini, ho una corda, sì. Vedete che ha i capelli lunghi e delle fattezze abbastanza femminili. E sembra che il corpo si muova leggermente, cioè come se stesse respirando. E a faccia in giù. A faccia in giù. Di lato, tipo così. Ok, ok, quindi fa le bolle nel caso. Non vedete bolle. Mi tolgo la giacca, pantaloni, guanti, le scarpe, il cappello. E... vedete che il, tra l'altro che l'infezione sul petto è avanzata, la vedete molto più avanti rispetto a prima. E ho una corda, me la leggo alla vita e una la leggo alla... come si chiama? Al parapetto, tipo, sì, una roba del così. E mi tuffo in acqua. Ok. Aku ha impugnato l'arpione per sicurezza e tra sé e sé dice: nah, siamo troppo lontani. Voi tre a bordo mi dite cosa volete fare e poi vi descrivo il finale della sessione. Io sono lì pronto con il coniglio e la bacchetta in mano, ma aspetto di vedere cosa succede a Lieto. E la corda è di 15 metri, un paio di metri. C'è la corda della nave da usare, non c'è problema. Ah, ok, ok. Che è molto più lunga. Ok. Mi tuffo e nuoto. È vicino a... Mif penso che sia pronta a sparare, a meno che Lieto non gli abbia mancato l'arma. Lieto? Yes, te la lascio. È tua. Lieto sta a vedere cosa fanno Sina o puoi tenerla la pistola. Lieto è tipo, vabbè, se si muove palla di fuoco, cioè. Butti in mare, nuoti verso la persona e quando sei a meno di un metro di distanza... Lì, prego. Roll pulito. È un roll di evitare, nello specifico, però credo... Ah no, è più due. Cosa ti ha letto? Perché evitare? Cos'è che devi evitare? Di 10 più 2 basta? O è un canattino? Sì, di 10 più 2. Quattro. Non eviti. Non è una prova di fisico, vero? No, è una prova di evitare. E quindi voi vedete che la donna si gira a guardare Nibel quando sei sufficientemente vicino, sparisce sotto l'acqua e un secondo dopo sparisce Nibel. E finisce la sessione. Oh shit, era un cazzo di mostro. Era un mostro, dai, era un mostro. Tipo quelli che hanno il lumino, era un mostro. Ma sai cosa avevo pensato di fare? Dico, mando il coniglio, lo faccio mettere sopra così vediamo se è una persona o è un'esca.